Europa 24. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchiesi, in primo piano il commissario Olli Rehn, che a Radio 24 interviene sulle prossime sfide europee e sul governo italiano. Lo ha intervistato Claudia Vanni. Le elezioni europee possono essere un esame per il superamento della crisi, un test per la solidarietà europea. Che cosa si aspetta? Avremo un dibattito intenso nella maggior parte degli Stati membri riguardo l'economia europea e la solidarietà in questo contesto. In particolare perché in una parte di questi paesi abbiamo ancora livelli troppo alti di disoccupazione, in particolare giovanile. Allo stesso tempo la crisi ucraina e le conseguenti relazioni europee russe hanno creato una situazione critica, riflessa in un dibattito pubblico per il momento. I recenti eventi hanno sottolineato che l'obiettivo dell'Unione Europea di preservare la pace e la sicurezza non è affatto sorpassato. Ha detto che il governo di Renzi è ambizioso. Che cosa ne pensa? Il nuovo governo di Matteo Renzi ha un programma audace e riformista per supportare una maggiore crescita. E questo è quello che i cittadini italiani stavano chiedendo. Il Tribunale europeo ha confermato che il contributo finanziario fornito dal Fondo europeo di sviluppo regionale alla Puglia deve essere ridotto di quasi 80 milioni di euro. Il Tribunale sottolinea come le gravi carenze di cui le autorità italiane hanno dato prova nella gestione del controllo dell'utilizzo dei fondi sono tali da condurre a irregolarità sistemiche. Entro giugno saranno versati i primi 850 milioni di euro di aiuti europei all'Ucraina, lo indicano qualificate fonti europee, specificando che ad aprile sarà versata la prima tranche da 100 milioni di euro, sbloccata dalla firma della parte politica dell'accordo di associazione, degli aiuti macroeconomici da complessivi 1,6 miliardi. Una seconda tranche da 500 milioni è prevista a giugno, mentre a maggio sarà la volta di 250 milioni del contributo per la costruzione degli edifici pubblici. La Serbia manterrà il regime di libero scambio con la Federazione Russa che consente agli investitori esteri in Serbia di esportare in quel paese senza pagare dazi doganali. Lo ha assicurato il presidente Tomislav Nikolic, che ha detto che in un periodo in cui le relazioni tra l'Unione Europea e la Russia vanno verso un periodo molto duro e difficile, la Serbia manterrà la sua posizione del tutto neutrale. La prossima settimana sarà decisiva per la Grecia, infatti previsto il via libera alla prossima tranche di aiuti. Giorni decisivi per il via libera alla prossima tranche di aiuti alla Grecia, che non riceve fondi europei da dicembre. La nuova iniezione del salvataggio sarà discussa dai ministri dell'economia della zona euro nella loro riunione informale ad Atene martedì. L'obiettivo è raggiungere un accordo entro metà aprile, non c'è ancora la somma esatta che i ministri discuteranno, ma si dovrebbe aggirare sui 10 miliardi di euro che saranno versati in una prima tranche a maggio e il resto nei prossimi mesi. Intanto il governo greco chiude l'uno dopo l'altro i fronti aperti all'interno dei gruppi parlamentari dei partiti che lo sostengono, Nea Dimocratia, centrodestra e PASOK socialista. Il punto è l'accordo raggiunto con la Troica, Banca Centrale Europea, Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale, che riguarda alcune riforme considerate di primaria importanza per la competitività dell'economia. E il primo ministro, Antonis Samaras, ha infatti voluto ricordare ai deputati del suo partito l'importanza del voto di domenica proprio sull'accordo con la Troica, dal quale, tra l'altro, dipende l'assegnazione della tranche di aiuti alla Grecia per fare uscire il paese dalla crisi. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per Europa 24 è tutto, vi saluta qui Daniele Biacchi. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.